Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Abbiamo molte dichiarazioni sia sui conti INPS, ma anche dichiarazioni su Electrolux a parte del ministro Zanonato e sulla Fiat, e sul costo dell'energia anche da parte del presidente di Confindustria Squinzi. L'allarme lanciato dal leader della CISL, Raffaele Bonanni: il paese si sta suicidando mentre gli altri si stanno riorganizzando, e appunto sono i sindacalisti che parlano. Handelsblatt, il quotidiano economico finanziario tedesco, che non manca mai di bacchettarci. La politica italiana, però, da questo punto di vista è difficile dargli torto, la politica italiana fa danni alle imprese ed è giusto che Alitalia e Fiat cerchino una cura fuori dalla patria. Gli imprenditori italiani, scrive Handelsblatt, ancora oggi raccontano di quando Gerhard Schröder partì per la Cina portandosi dietro l'economia del paese, mentre Silvio Berlusconi mandò il ministro della cultura Rocco Buttiglione. Io non so se gli imprenditori italiani raccontino ancora questa cosa, certo che la raccontammo noi, anche perché in quel periodo le missioni in Cina venivano organizzate anche, non solo, ma alcune di queste da Confindustria, ABI, missioni di sistema. Questa è la critica di Handelsblatt. Ma dico, è uno strano paese l'Italia, perché mentre parleremo anche di Alitalia, oggi ci sono due notizie singolari, una soprattutto riguarda le agenzie di rating. Ora ne parleremo nella seconda ora del programma. In questo programma abbiamo sempre avanzato dubbi, per essere buoni, non sull'operato, perché nessuno si permette di dire che l'operato sia sbagliato, ma sul peso che queste agenzie di rating hanno a livello mondiale, quelle che danno i voti oltre che ai singoli privati anche agli stati, il peso che gli si è voluto dare, perché è anche vero che come europei siamo stati causa del nostro male, attribuendo questo ruolo anche sulla credibilità poi delle obbligazioni, degli strumenti finanziari alle agenzie di rating, ma ne abbiamo anche parlato perché ci sono obiettivamente degli possibili conflitti di interesse, nel senso che poi è vero che loro dicono che gli azionisti non pesano, non contano, la mano destra non fa quello che fa la sinistra, è anche vero però che hanno avuto un ruolo importante e molto criticato prima dello scoppio della bolla, non mettendo in guardia dai rischi. Non mi riferisco solo a Lehman Brothers, mi riferisco anche a tanti altri casi. Ed è anche vero che comunque quando tu hai dentro dei fondi importanti, per esempio il più grande gestore di fondi al mondo, BlackRock, che ha quote in Standard & Poor's e Moody's, beh, insomma, il sospetto che qualcuno possa sapere prima cosa fai o che ci possa essere così una comunicazione tra la mano destra e la mano sinistra c'è. Perché lo dico? Perché le critiche le abbiamo sempre fatte. Devo dire che è un po' singolare però la richiesta di oggi della Corte dei Conti italiana, perché il procuratore regionale del Lazio, della Corte dei Conti del Lazio, Raffaele De Dominicis, confermando quanto già anticipato dal Financial Times, ha chiesto il pagamento di danni alle tre principali agenzie di rating internazionali, Standard & Poor's, Moody's e Fitch, per l'abbassamento del voto sull'Italia nel 2011, ha chiesto 117 miliardi di euro. Ora, uno può dire, bene, in questo modo abbiamo risolto il problema del deficit e del taglio del cuneo fiscale per i prossimi anni. È un po' singolare la richiesta, perché dice che, la Corte dei Conti dice, le agenzie di rating hanno commesso un errore nel non tener conto dell'alto valore del patrimonio storico, culturale e artistico del nostro paese, che universalmente riconosciuto rappresenta la base della sua forza economica. Allora, due, tre piccole cose alla Corte dei Conti. Uno, che cosa vuol dire? Che adesso mettiamo nel patrimonio, nel bilancio di uno Stato anche Pompei, mettiamo Piazza San Marco, il Colosseo, i bronzi di Riace, chiedo. Due, come facciamo a valutare beni inalienabili? Perché non è che Pompei la puoi vendere, spostare, sì, c'è chi provò a vendere il Colosseo, se non ricordo male, Totò. però era un altro film, appunto. Tre, cosa vuol dire che abbassiamo il voto improvvisamente a tutti quelli che non hanno un patrimonio storico, artistico, culturale? L'Australia, il Canada, svantaggiati perché sono paesi giovani, in Sudafrica pure? E allora la Grecia, cosa dovrebbe dire la Grecia, che è stata declassata in tutti i modi ed ha uno dei patrimoni artistico-culturali più importanti del mondo? Quattro, il patrimonio artistico-culturale, cara Corte dei Conti, va anche saputo valorizzare. È proprio il caso di Pompei e dei bronzi Riace e di altre amenità che raccontiamo tutti i giorni. Mi sa che se mettiamo quel patrimonio dentro ci becchiamo un altro abbassamento di voto, per come sappiamo sfruttarlo. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo anche della crisi di Panama, non è quella che immaginate voi, ma la crisi di Panama in realtà riguarda il rifiuto delle autorità del canale di Panama di ogni proposta da parte del gruppo Unidos por el Canal, guidato dalla spagnola Sacyr, è composto anche dall'italiana Salini Impregilo al 38% e da una belga, per trovare un accordo per il cofinanziamento degli extra costi per l'opera, cioè il raddoppio del canale di Panama, 82 km da scavare tra Pacifico e Atlantico. Voi direte che cosa c'entra? Beh, c'è di mezzo il gruppo Salini Impregilo e questo ha avuto anche una ripercussione sui mercati, non solo a livello di trattativa. Faccio notare che i costi sono cresciuti di 1 miliardo e 600 milioni di dollari, sfiorano i 5 miliardi complessivi. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Era la Fontana di Trevi, non il Colosseo, quello che Totò cercava di vendere. Ha ragione, chiedo venia, però mi sembra un po' singolare la Corte dei Conti italiana, chiede 117 miliardi di euro le tre agenzie perché non hanno considerato il valore del nostro patrimonio artistico-culturale, che mi ricorda un po' quando i politici o certi amministratori dicono dobbiamo puntare sul turismo, dobbiamo puntare sul nostro patrimonio culturale, sul nostro petrolio. Sì, giustissimo, vero, 20 anni che lo diciamo. E invece sono sempre le solite regioni che ci puntano, e le regioni del sud, mi dispiace dirlo, anche per colpa dei loro amministratori, sono all'anno zero giù di lì. Ma adesso ho qualche chicca bellissima oggi sugli sprechi di finanziamento. Mamma mia, ne ho una sulla sagra del mandorlo in fiore che è numero uno. Ci arriviamo. La borsa abbastanza invariate, direi, tutte le borse. Parigi invariata, Francoforte meno 0,1, Londra più 0,1, Milano più 0,1, l'America meno 0,30%. In realtà poi dentro il listino va molto bene World Duty Free più 5,90, UBI Banca più 5,5, Mediobanca più 3,60, Monte dei Paschi più 3,20, G-Tech più 2,80, Pop Emilia Romagna più 2,40, Confimeccanica e Atlantia, Prismian più 2,20, Enel più 2,1, Banco Popolare più 1,60, Intesa San Paolo 1,5 punti di rialzo, come Telecom Italia. Chi perde? Iux meno 2%, Mediolanum meno 1,80 come Fiat, Eni meno 1,30, Azimut meno 1,20 come Mediaset e Generali. L'1% lo perde Tenaris, ma anche Ferragamo. Veniamo alle notizie di carattere internazionale. L'Unione Europea starebbe studiando per la Grecia la possibilità di allungare da 30 a 50 anni il rimborso degli aiuti finanziari erogati nel quadro del salvataggio internazionale e di abbassare di 50 punti base il tasso di interesse su alcuni dei prestiti già ricevuti da Atene tramite la linea di credito da 80 miliardi. Traduco? Insomma, l'Unione Europea si rende conto che abbiamo fatto la faccia feroce, no? Facita la faccia feroce, come dicono a Napoli, però tanto con il 63% degli anziani che non riescono ad alimentarsi correttamente in Grecia, cosa vuoi fare ancora? Bombardare la Grecia? Cosa dobbiamo fare? Cosa deve fare la Troica? E allora, sotto sotto, allunga la scadenza da 30 a 50 anni. Auguri a chi vedrà il rimborso finale, auguri a tutti voi in ascolto che vedrete il rimborso finale tra 50 anni del prestito greco e anche l'abbassamento del tasso di interesse sulle linee di credito. È inutile scandalizzarsi, lo sapevamo fin dall'inizio che non puoi chiedere a un paese, lo devi salvare per forza, poi gli chiedi tutte le i piani di rientro, ma era inutile, capito, parlare con un accento teutonico e dire uno Stato non è detto che non possa fallire, poi si è visto che non poteva fallire perché tanto la tempesta sui mercati finanziari rischiava di travolgere tutti gli altri stati dell'area euro, a partire dalla Spagna, dall'Italia, dal Portogallo, ma anche contagiando la Francia e lasciando la Germania da sola col cerino in mano. Passiamo invece alla nostra IMPS. Non voglio parlare di Mastra Pasqua. Ah, mi ha scritto, vediamo la mail, non ce l'ho più, adesso la riprendo però. Mi ha scritto l'amministratore delegato della società in cui siede come sindaco, se ben ricordo, la moglie di Mastra Pasqua, spiegandomi che non veniva percepito alcun gettone di presenza. Meglio, non mi risolve tutti i conflitti di interesse, però importante la correzione. Come vede, cercando di essere più corretti possibile, citiamo anche questo elemento. No, dell'INPS vorrei occuparmi perché oggi ci sono i dati sulle domande di disoccupazione e mobilità nel 2013. Hanno fatto un più 34%, superato il tetto dei 2 milioni di richieste tra domande di disoccupazione e appunto mobilità. Le ore di cassa integrazione, per fortuna a gennaio, erogate sono del 10% più basse rispetto a un anno fa, e sono 81 milioni. E nel programma di Simone Spezia, Effetto Giorno, è intervenuto il presidente della commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali. Si chiama Lello Di Gioia e ha rassicurato i pensionati italiani dopo le notizie sui conti INPS risultati in rosso di 14 miliardi. Non si devono preoccupare. E anche quelli che devono andare in pensione possono stare tranquilli. Adesso ascoltiamo questo passaggio e poi cerchiamo di far capire che però è una finta risposta, o meglio una vera risposta a un non problema. Secondo noi e secondo anche le audizioni che abbiamo fatto, non sono affatto a rischio. Come giustamente lei sottolineava, vi è stata appunto questa difficoltà per quanto riguarda la riorganizzazione dell'istituto, avendo incorporato appunto l'INPDAP, e questo ha portato ovviamente ad un certo tipo di squilibrio che è stato dovuto dalle difficoltà che l'INPDAP attraversava. Con l'ultima legge di stabilità abbiamo approvato un emendamento che quindi riequilibrava sostanzialmente i conti. Quindi la cosa che terrei a precisare con grande fermezza è che i pensionati italiani non si devono preoccupare, e oltretutto anche coloro i quali dovranno andare in pensione possono stare tranquilli. Le pensioni non sono a rischio, per dirla molto brutalmente? Sicuramente sì. Certo, abbiamo necessità di completare la riorganizzazione dell'INPS, perché comunque è in una fase ancora non di completamento. Il fatto che in questi giorni si sta discutendo anche della nuova governance dell'INPS, con una proposta che il governo farà nei prossimi giorni, ci consentirà appunto di avere una governance dell'INPS che sicuramente sarà in grado di portare a termine la riorganizzazione e quindi dare molto più stabilità al sistema. Perché è una risposta vera a un finto problema? Perché già ieri il nostro Fabio Pavesi, che aveva pubblicato su Sole 24 Ore il calcolo, aveva chiarito che tanto non sono in discussione le pensioni degli italiani. Qualunque rosso dell'INPS viene ripianato in automatico, siccome è il 100% dello Stato, dai contribuenti, cioè dallo Stato italiano. Quello che avevamo messo in evidenza era di quanto era aumentato in questi 7 anni il fabbisogno dell'INPS, ed era sui 35 miliardi nell'arco di 5 anni, cioè che questo rosso stesse aumentando. Nessuno ha mai detto che l'aumento di questa perdita potesse portare a non erogare le pensioni, ma stiamo scherzando, e l'abbiamo precisato anche ieri. Allora, vedo che c'è un ascoltatore, alcuni ascoltatori sulla Corte dei Conti, sulle agenzie di rating dicono no, ha ragione la Corte dei Conti, va bene. C'è chi dice che sono la quintessenza del peggior becero populismo culturale. No, ho solo fatto presente che mi sembrava un po' strano mettere il patrimonio artistico culturale, cioè allora chiediamo che lo faccia anche l'Europa quando calcola il nostro debito e il nostro è il nostro deficit. Poi c'è chi mi scrive testa vuota, zuccone che non è altro, e vabbè, su questo ci può stare. Per una volta che la Corte dei Conti fa una cosa giusta, questa è la strada. Se una società ha quadri o beni artistici, non vanno messi nel patrimonio. No, mi scusi, ma se uno ha un quadro, ha una valutazione, lo può vendere, ha una base d'asta. Ma noi come facciamo a mettere a valutazione Pompei? Cioè, oppure decidiamo che si può alienare a fondi, ma questo potrebbe stranieri, il patrimonio artistico italiano, però devi venderglielo proprio, devi incassare, o glielo vendi con un o glielo dai con un leasing a 100 anni, non lo so, ma decidiamo che quella è la strada. Allora lo Stato fa un calcolo e dice: secondo la valutazione internazionale, dare Pompei in gestione ci frutterà questi soldi, dare i bronzi Riace ci frutterà questi soldi, dare il Colosseo. Allora sì, ma che io abbia visto, non ho ricordo di uno Stato che abbia messo nel bilancio il patrimonio artistico-culturale come entrate future. Poi tutto si può fare. Altra cosa è una società che ha comprato un quadro o appunto un bene artistico che ha un suo mercato e che può essere ricollocato in un'asta, va bene. Io vorrei arrivare però rapidamente alla sagra del mandorlo in fiore. Allora andiamo avanti con però Zanonato sulla politica energetica. Dice il ministro: ci siamo dotati di una politica energetica, una strategia c'è, l'abbiamo definita, può essere migliorabile, ma non dobbiamo partire da zero. Questo in un convegno della CISL sui costi dell'energia che penalizzano le imprese. Ma soprattutto Zanonato risponde oggi al Question Time all'amministratore delegato di Electrolux Ferrario, Ernesto Ferrario, che ieri ha detto su Porcia e sul resto degli stabilimenti: noi non abbandoneremo l'Italia. Anche per Electrolux la priorità dovrà essere la prospettiva industriale, nessun stabilimento dovrà essere chiuso, e su questo ci si confronterà non solo con il management italiano, ma anche con i maggiori responsabili internazionali e con la proprietà. Nei prossimi giorni il governo incontrerà i vertici di Electrolux e sarà avviato un confronto su soluzioni diverse da quelle prospettate fin qui per gli stabilimenti italiani e le relative unità operative. Le dichiarazioni che ha rilasciato ieri il dottor Ferrario, che è l'amministratore delegato di Electrolux Italia, nella parte in cui afferma che non si intende abbandonare nessun stabilimento e che non è mai stato detto che la produzione a Porcia cesserà, sembrano muoversi nella giusta direzione, ma in ogni caso e aiutano a stemperare la tensione creata nei giorni scorsi, ma in ogni caso vogliamo vedere un preciso piano industriale. In conclusione, ritengo che sia stata messa sul giusto binario un'avvertenza aziendale che sembrava difficile affrontare. E poi Zanonato su Fiat dice: beh, insomma, indipendentemente dalla sede, noi continuiamo a dirlo, infatti la sede legale e fiscale uno può fare quello che vuole, è legge, è importante la sede operativa e soprattutto il mantenimento dell'occupazione. E dice Zanonato: indipendentemente dalla sede della Fiat deve restare in Italia la produzione primaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha una forte attenzione per il settore dell'auto e per la Fiat in particolare. Ricordo che ottobre scorso ho insediato la consulta permanente dell'Automotive. Obiettivo di questo organismo è individuare possibili linee di intervento per la ripresa del comparto e dell'intera filiera, che è duramente colpita dalla crisi. Nel suo ambito il Ministero intrattiene rapporti regolari con la Fiat. Nello specifico di Fiat Chrysler ho sollecitato l'amministratore delegato a chiarire al più presto le prospettive che si aprono per gli impianti del gruppo, soprattutto per quelli sottoutilizzati. Non è però tutto fermo, poiché la produzione a Grugliasco e quella prevista a Mirafiori dei nuovi modelli Maserati, la ristrutturazione delle linee di Melfi per produrre oltre alla 500 i nuovi SUV Jeep e l'annuncio nei prossimi mesi che nei prossimi mesi potrà iniziare a Cassino la produzione dei primi nuovi modelli Alfa Romeo, rappresenta un'importante indicazione sulla strategia Fiat per il nostro paese. Produzione di modelli per la gamma alta destinati all'esportazione, soprattutto verso i mercati extraeuropei, anche alla luce delle ottime prestazioni di mercato di questi segmenti nell'ultimo quadrimestre 2013. Si tratta di scelte molto importanti e certamente condivisibili, che lasciano tuttavia ancora ancora senza risposta il problema dell'occupazione nel breve medio periodo. È evidente che lo sviluppo di simili indirizzi strategici richiede un sistema coerente di supporti sistemici, facilitazioni alle esportazioni, forte sostegno alla ricerca e all'innovazione, facilitazioni all'apertura di nuovi mercati particolarmente interessati al segmento alto di gamma. Su questo fronte si dovrà sviluppare il confronto con la Fiat, la quale, non va dimenticato, ha profonde radici nella storia industriale italiana. Ma chi gli scrive i discorsi a Zanonato? Tutto bene, tutto un insieme di punti interrogativi, ma che senso ha concludere dicendo la Fiat, la quale non va dimenticato, ha profonde radici nella storia industriale italiana? Grazie, è parte stessa della storia industriale italiana, è per questo che ce ne occupiamo così tanto, storia industriale, politica, economica, di tutto. La Fiat, una volta si diceva quello che è bene per la Fiat è bene per l'Italia, capito? O Agnelli che diceva la Fiat non può che essere filo governativa. Ma stiamo parlando della Fiat, grazie Zanonato nel ricordarci che è parte della storia, ha avuto una parte importante e affonda le sue radici nella storia economica italiana. E a proposito, quella è la storia economica. Sul futuro industriale italiano invece le nubi restano. È tornato su questo anche il presidente di Confindustria Squinzi, sempre nel corso del convegno della CIS sul costo dell'energia, che ricordiamo le imprese italiane pagano un 23-30% in più nel costo dell'energia rispetto alle concorrenti dell'area euro, e quindi energia ma anche burocrazia come costi insostenibili per le imprese. Ultima questione che è essenziale affrontare per assicurare il successo delle politiche di sviluppo sostenibile è quello della burocrazia soffocante. Dalla effettiva semplificazione di regole e procedimenti amministrativi dipende lo sviluppo delle iniziative economiche, soprattutto quelle connesse alla realizzazione di investimenti produttivi per la tutela ambientale e l'uso efficiente delle risorse energetiche, nonché la creazione di nuovi posti di lavoro. Proprio la materia ambiente rappresenta un esempio eclatante. Lo scorso anno abbiamo presentato uno studio sul funzionamento delle autorizzazioni integrate ambientali, dal quale emerge come l'Italia, oltre ad avere i procedimenti più lunghi per la concessione dell'AIA, ne prevede la durata più breve rispetto agli altri paesi europei. E sommando i tanti, troppi casi di burocrazia delle norme e dei procedimenti, per non parlare dei veti irrazionali al rilascio di autorizzazioni necessarie ad avviare impianti di produzione, è possibile delineare una preoccupante situazione che non trova corrispondenza negli altri paesi. Non dobbiamo poi sorprenderci se le imprese tedesche, francesi o inglesi corrono più rapidamente delle nostre. E come già dicemmo ieri, invece che polemizzare con Confindustria, gli industriali facciano la loro parte. Ma insomma, perché il premier Letta reduce, lo ridico per la quinta volta, da una missione di successo negli Emirati Arabi? Glielo abbiamo riconosciuto, l'abbiamo detto in tutti i modi, saranno pochi soldi secondo alcuni, ma intanto sono soldi e investimenti in chi li ha. Perché il premier Letta non ci dice cosa vuole fare su questa burocrazia che si potrebbe riformare a costo zero? Una cosa che mi fa impazzire questa: non uscirebbe niente dalle tasche dello Stato, dovresti ridurre il potere e dare una buona uscita a qualche dirigente, e voglio dire, dai, tanto ce la può fare. No, avresti un vantaggio economico immediato per le imprese, no? Allora, perché non ci occupiamo di queste cose, oltre che dei costi di energia? Anche perché non sono solo gli imprenditori a dire che la situazione è ancora molto molto grave e delicata, senza dover essere accusati di disfattismo. Il numero uno della CISL, che non è la CGL, è un sindacato sempre molto, diciamo, dialogante, che non ha mai avuto posizioni barricadere, Raffaele Bonanni dice una cosa leggera leggera come: il paese si sta suicidando, è da manicomio. Il paese si sta suicidando, si sta suicidando, e si vede anche mentre gli altri si stanno riorganizzando. Io sono stato colpito l'altro ieri dalla compassata sulle vicende del trasporto aereo, Lufthansa, a un certo punto ha reagito violentemente di fronte al fatto che si stava chiudendo una cosa importante per noi, che era l'alleanza con gli arabi, che apre nuove prospettive al volo, perché loro sono sentiti toccati nel vivo del loro interesse. È legittimo da parte loro, ma io penso che non c'è consapevolezza fino in fondo nel paese dell'importanza di rimettere mano sugli asset che fanno di questo paese ancora, nonostante l'autodistruzione che dura da diverso tempo, uno dei paesi più importanti nel manufatturiero mondiale, un paese economicamente tra i più importanti del mondo. Il problema è noi di un paese che fonda la sua ricchezza quasi tutto sulle manifatture. È veramente una vicenda da follia e da manicomio, che chi vive solo di questo non pensa alla cosa che più lo condiziona. È un fatto di follia. Adesso andiamo con il meteo e poi c'è la sagra del mandorlo in fiore, ma anche i minibus ecologici comprati in Trentino pagati un'enormità, e i documenti usati dall'ufficio edilizia privata, no, rido perché veramente viene da piangere, dall'ufficio edilizia privata del comune di Palermo come fermaporta, e poi gli architetti non riuscivano a capire dove fossero le pratiche, no? Perché poi tutto il tema della burocrazia, faccio solo un inciso, non è solo un danno per l'impresa che ci mette tempo, significa anche alimentare costantemente, quotidianamente la corruzione, perché poi quando tu sei esasperato da una pratica che è ferma, cosa fai? Vai lì, chiedi l'amico dell'amico, la spinta, la bustarella e quant'altro. Cioè una burocrazia efficiente e trasparente ridurrebbe anche a minimi termini, non dico che la cancellerebbe, la tentazione di corrompere funzionario, delle volte una tentazione comunque da punire, comunque illegale, ma in qualche modo che si può comprendere quando tu aspetti da 6 mesi, da 1 anno di sapere se hai avuto il via libera su una pratica. Ecco perché penso che faccia comodo ai dirigenti, ai funzionari preposti rimpallarsi le pratiche. Comunque, sagra del mandorlo in fiore e documenti usati come fermaporta, dopo il meteo, poi la borsa che ha chiuso con un più 0,26%, la vicenda poltrona Frau, e poi andiamo anche a Impregilo Salini sul canale di Panama. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo un messaggio tranquillo che dice: Super Mona, immagino che sia io conoscevo Super Ciuc, ma insomma, Super Mona, sai quante sagre si possono fare con i soldi che Monti ha regalato al Monte dei Paschi? Allora guarda, io sono anche un Super Mona, però per essere proprio corretti, i Monti, i Tremonti e i Monti Bonds non sono un regalo al Monte dei Paschi, perché l'interesse è molto alto lì, è del 7%. Ora, se io le presto dei soldi dal 7 al 9, e se io le presto dei soldi le chiedo tra il 7 e il 9% e poi le dico anche che è un regalo, obiettivamente è scorretto questo. Quindi se il Monte dei Paschi riesce a ripagare, lo Stato ci guadagna tra il 7 e il 9%. Se lei, che non è un supermona, sa dove investire i soldi con un rendimento del 7-9%, ce lo dica, così noi, almeno io supermona, diventiamo un po' meno mona. Però non è un regalo Monte dei Paschi, e non so lei cosa legga, ma c'è chi molto ci ha cavalcato su sta cosa, cioè ci ha polemizzato su questa cosa, non è un regalo. Poi bisognerà vedere se Monte dei Paschi riuscirà a restituire questi 4 miliardi o se lo Stato diventerà azionista del Monte dei Paschi di Siena, ma ancora non siamo al regalo. Invece, sai quante sagre si possono fare con i soldi che Monti ha regalato? Non li ha regalati, ma vediamo un po' le sagre. Intanto c'è un caso assurdo, poi arriverò anche alla provincia di Pescara, che... No, il caso della sagra del mandorlo in fiore è pazzesco, perché è ad Agrigento. Praticamente arrivano da tutto il mondo per esibirsi alla tradizionale sagra del mandorlo in fiore, di Agrigento, ma il comune siciliano aveva cancellato la data perché non ha le risorse, si è dimenticato, in questo io dico, un po' di serietà nella vita, di avvisare i gruppi musicali che dovevano arrivare per la sagra del mandorlo in fiore. Allora, sentite cosa è successo: sono arrivati i gruppi di musica tradizionale lettone e giapponese senza albergo, senza possibilità di avere un albergo pagato, il comune non glielo vuole pagare. Meno male che i cittadini hanno fatto una specie di colletta e praticamente hanno trovato l'albergo per per un gruppo di ballerine proveniente da Riga. Ora, è più facile trovare un albergo per il gruppo di ballerine proveniente da Riga? Ma per fortuna anche in extremis un gruppo di bambini venuti dal Giappone è riuscito, dopo aver trovato un alloggio in albergo, a esibirsi in una scuola. Ma che figura facciamo non solo con le ballerine di Riga, ma anche con i bambini che vengono dal Giappone per esibirsi? I mandorli sono importanti in Giappone, la saga del mandorlo in fiore. Tu cancelli la data, ma glielo vuoi dire ai giapponesi che non è proprio dietro l'angolo? Agrigento, che cosa doveva fare il funzionario preposto ad avvisare i giapponesi lettoni? Poi c'è un gruppo bulgaro, no, sembra una barzelletta questa, c'è un gruppo bulgaro bloccato mentre stava per imbarcarsi sull'aereo da Sofia per Palermo, a cui sono stati chiesti al gruppo bulgaro 3.000 euro di rimborso di penale. Ora, il gruppo bulgaro si è rivasto sul comune di Agrigento, cioè, guarda, abbiamo comprato i biglietti, non c'è più la saga del mandorlo in fiore, e invece il comune di Agrigento non ne vuole sapere. Ma la risposta mitica è quella del sindaco di Agrigento, che invece di occuparsi di quella bellissima speculazione edilizia che ha trasformato in una specie di Beirut la Valle dei Templi, si chiama Marco Zambuto, dice: non ho mai autorizzato quegli inviti, qualcuno ha falsificato la mia firma. Ma sindaco, ma chi va a falsificare la firma per invitare i bambini giapponesi, il gruppo bulgaro, forse le ballerine provenienti da Riga, lettoni? Ma per favore, ma chi è che si mette a falsificare? Cosa sono, i bulgari che falsificano la sua firma perché vogliono andare a tutti i costi a Agrigento, alla saga del mandorlo in fiore? Ma almeno taccia, paghi questi gruppi, evitiamo un'ulteriore figura. Ammettete che avete fatto una grandissima cavolata, non avete neanche avvisato che non c'era più la saga del mandorlo in fiore. Stia zitto che è meglio, perché è peggio il taccone del buso, la toppa del buco, dai. Da Agrigento alla provincia di Trento, che organizzò i mondiali, cioè partecipò all'organizzazione dei mondiali di sci della Val di Fiemme nel 2013, l'anno scorso. Allora, ci dovrebbe spiegare la provincia di Trento, che è provincia autonoma, tanti soldi nostri, gestisce discretamente bene rispetto a altre regioni autonome, però perché ha speso 10 milioni di euro per 8 minibus ecologici e una stazione di rifornimento? Allora, degli 8 mezzi, solo i 3 minibus alimentati a idrogeno sono costati 1,5 milioni di euro l'uno. Un minibus, 1,5 milioni di euro l'uno, ma che è? Vola, decolla verticalmente, no? E in totale quindi 4,5 milioni di euro per 3 minibus a idrogeno. Ma glielo davamo noi, capito? C'era gente che per 1,5 milioni te lo spingeva a forza il bus. Chiedere in giro tra i disoccupati del centro, nord e sud Italia. 4,5 milioni di euro per 3 minibus da 20 posti. Sta indagando anche la Guardia di Finanza, che vuole sapere come mai sono costati così tanti, perché secondo gli esperti, non, cioè non deve essere difficile sapere quant'è il mercato di un minibus, un minibus a metano con gli stessi posti e lo stesso livello di emissioni costa 85.000 euro. Oggi devo fermarmi, mi fermo diciamo con Palermo, perché domani ne facciamo delle altre. Allora, però devo parlare anche di Pescara. Allora, Palermo. Insomma, l'architetto Walter Parlato cerca la sua pratica e si aggira tra i corridoi dell'assessorato all'edilizia privata. Una strutturina da niente a Palermo, 138 dipendenti, 126 comunali e 12 tra ISU e operai Coime. Non si riesce a scoprire dove è la finita la sua pratica, e la cosa che sorprende l'architetto, giustamente, è quando l'ha finalmente trovata. Dice, beh, efficienti l'hanno trovata. Sapete dov'era? Veniva... L'ha trovata lui innanzitutto mentre attraversava i corridoi. Praticamente è una vicenda alla Sherlock Holmes: una forte folata di vento fa sbattere una porta, fa cadere una pila di carte che la teneva ferma per evitare che sbattesse, e da questa pila di carte che cade emerge la pratica che l'architetto trovava. E voglio dire, è un modo non esattamente informatico, non è proprio da information technology, però se uno vuole trovare una pratica, vedi, il vento ha aiutato, la porta ha sbattuto, la pila di faldoni che teneva ferma la porta è caduta, la pratica è uscita. E che volete di più? Se non è efficienza questa? Un'ultima nota invece sul comune, sulla provincia di Pescara, che già è alle prese con i tagli dei trasferimenti. Adesso per sentenza della Corte di Cassazione, dovrà pagare 1.700.000 euro a una persona che non ha mai lavorato. Si tratta di Edoardo Barusso, che fu chiamato dall'allora presidente della provincia Giuseppe De Dominicis a ricoprire un incarico importante, immagino, ma soprattutto fu assunto come direttore generale per un giorno, fu subito licenziato. Perché? Perché vennero fuori tante di quelle polemiche. Barusso deve essere una persona stimatissima, 50 anni, nato a Udine, ha un lungo curriculum di esperto di diritto amministrativo, però fu assunto come manager con un contratto per 4 anni, trattamento economico fisso da 300 milioni di vecchie lire l'anno, 12.000 euro al mese, compensi per attività di formazione e aggiornamento del personale, rimborsi di tutte le spese. Poi benefits, appartamento arredato con tutte le utenze a carico della provincia, telefono cellulare, PC portatile sempre a carico della provincia e tutte le risorse. Poi i compensi sulle sponsorizzazioni, sulla partecipazione alle commissioni. Non furono previsti vincoli di orario o presenze e ottenne anche la possibilità di assentarsi dal lavoro per una settimana ogni mese. Ma questa va fatto bingo. Scoppiano polemiche a Pescara, ve la faccio breve. La provincia decide di licenziare il manager appena assunto, lui fa causa ai tutti i tre livelli e gli dà sempre ragione il tribunale anche in corte d'appello fino alla Cassazione. Adesso la provincia deve pagare 1.700.000. Ora io vorrei sapere una cosa, però Barusso ha ragione, se aveva questo contratto l'hanno licenziato, evidentemente la giustizia ha detto che lui aveva ragione e bene ha fatto, visto che aveva firmato questo contratto, a rivalersi. Ma Giuseppe De Dominicis e la giunta provinciale della Pescara, che questo contratto proposero, firmarono nelle clausole, non pagheranno nulla? Cioè 1.700.000 adesso se lo beccano i cittadini di Pescara e poi i cittadini delle Abruzze e poi tutti i cittadini italiani? Boh, mistero. Traffico. Adesso la borsa. C'è un ascoltatore che dice che stiamo legittimando fra le righe le bustarelle. No, ho solo detto che la burocrazia, oltre che avere pesi enormi di carattere economico e amministrativo per le imprese, la burocrazia inefficiente tende anche ad aprire autostrade alla corruzione, perché poi è chiaro che quando un architetto va e trova la sua pratica che viene usata come fermaporta, che è scomparsa, la tentazione, diciamo, di dire sapete che c'è, mi rivolgo, cerco un'altra strada, è fortissima. Il mio sospetto e che non venga eliminata parte di questa burocrazia proprio perché avvantaggia la corruzione dei funzionari. Va bene così? Più 0,26% Milano, invariata Parigi, praticamente invariata anche Francoforte, meno 0,1%, Londra più 0,13%. Tra i titoli oggi World Duty Free più 5,30%, UbiBanca più 5%, Mediobanca più 3,5%, GTech più 2,80%. Come Monte dei Paschi e la Pop Emilia Romagna, Finmeccanica più 2,5, Atlantia più 2,30, Enel Green Power più 2. E allora partiamo proprio da questi titoli con Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, World Duty Free, appunto, ex Autogrill, e poi però anche Monte dei Paschi e Telecom, visto che c'è domani un CDA importantissimo. Esatto, World Duty Free oggi è andata bene, ma nei giorni scorsi, se ricordate, aveva frenato dopo il report critico da parte di Citigroup, quindi ha di fatto recuperato i punti, complice il fatto che la sorella Autogrill, salita dello 0,46%, ha annunciato di aver rinnovato, peraltro in anticipo, l'accordo, il contratto con l'aeroporto internazionale di Copenaghen, un aeroporto molto importante ovviamente per tutto il nord Europa. Per quanto riguarda il Monte dei Paschi, più 2,7%, riflettori accesi sin dalle prime battute di questa mattina, soprattutto dopo che Antonella Manzi, il numero uno della Fondazione MPS, ha detto che ci sono potenziali investitori esteri e ha negato invece negoziazioni in corso con fondazioni bancarie italiane. Non solo, ha anche alzato dicendo l'obiettivo sarebbe di chiudere l'operazione ovviamente di vendita delle azioni della fondazione entro fine mese, quindi chissà, entro fine mese la banca senese potrebbe avere nuovi azionisti di riferimento. Sì, anche perché il tutto deve essere più che chiuso entro maggio, diciamo, per cui non c'è moltissimo tempo. Andiamo avanti, Telecom, dicevamo. Telecom invece, anche in questo caso, riflettori accesi alla vigilia del consiglio di amministrazione, che dovrebbe analizzare, diciamo, eventuali modifiche alla governance, cioè all'assetto del consiglio di amministrazione, che poi sarà varato alla prossima assemblea di aprile. Soprattutto c'è uno scontro tra le tra gli azionisti di minoranza e invece Telco, che appunto è l'azionista di riferimento. Vedremo cosa succederà domani. Comunque le azioni sono salite dell'1,8% anche a seguito di un articolo di Repubblica che parla di un consolidamento nel settore delle telecomunicazioni. In particolare pare proprio che H3G, la società controllata che fa capo al cinese Li Ka-shing, possa essere in trattativa per lanciare un'offerta su Wind. Quindi ecco, su questo il nostro Stefano Totolo oggi ha raggiunto, non tanto su Wind, ci mancherebbe, ma su Telecom, ha raggiunto il direttore generale di Intesa San Paolo Gaetano Miccichè, e appunto il quale ha detto: penso che il consiglio di amministrazione verrà rinnovato con i criteri attuali. Io credo che sia abbastanza probabile che si arrivi alla prossima assemblea, è fra un mese e mezzo, quindi si approverà il bilancio a marzo. E poi nella convocazione dell'assemblea, oltre al rinnovo degli organi consiliari, si potrà eventualmente predisporre anche delle modifiche statutarie in funzione di quello che si deciderà di fare. Quindi io sono sempre dell'opinione che è sbagliato fare delle modifiche, diciamo, alla fine di un mandato, lo trovo anche inelegante, quindi ritengo che sia più opportuno poi affidare alla vera casa dell'azionista, che è l'assemblea, queste decisioni. Beh, netto quindi il giudizio di Gaetano Miccichè, quindi non è elegante, nemmeno elegante cambiare adesso, facciamo dopo l'assemblea con un nuovo assetto. Ricordiamo però che Gaetano Miccichè, che siede nel consiglio di amministrazione di Telecom, rappresenta Intesa, che è uno degli azionisti di Telco, mentre invece non la penserà assolutamente così Marco Fossati, che detiene il 5% ed è uno dei principali piccoli azionisti, piccoli ma, tra virgolette. Assolutamente, la posizione di Fossati è sempre stata molto diversa da quella dell'azionista di riferimento Telco, appunto il direttore generale di Intesa San Paolo, immagino che parli a nome di Intesa San Paolo e quindi di azionisti di Telco. Senti invece, Eleonora, la vicenda poltrona Frau. Allora, un rapido quanto ho, perché volevo far ascoltare anche una bella analisi su questo del vicepresidente della Fondazione Alta Gamma. Allora, ci arriviamo dopo. Oltre a Frau e in pregiro, di cui parleremo nella seconda ora del programma, migliori e peggiori della giornata, Bialetti Industrie, no, resta con noi Eleonora però, Bialetti Industrie più 20-80%, Bastoggi più 17,60%, in una battuta, ma che succede su Bastoggi? È giorni che sta schizzando in borsa. Sì, Bastoggi evidentemente c'è un po' un interesse sul settore immobiliare, ma dovreste chiedere a Guido Maurino, che è il massimo esperto. Ma che fai? Scarichi la palla ai colleghi, questo non l'avevo ancora visto. Vabbè, Warspace meno 9,50%, Cell Therapeutics meno 6,10%, TXT e-solution meno 4,60%, invece tra i titoli migliori anche Banca Carige sulle risparmi più 5,11%. Dopo il GR parliamo anche di poltrona Frau, che è andata tra virgolette in mani, anzi senza virgolette, in mani straniere, la vicenda del canale di Panama e la richiesta di 117 miliardi alle agenzie di rating da parte della Corte dei Conti del Lazio, perché non hanno considerato, nell'abbassare il voto all'Italia, il valore del patrimonio culturale della Fontana di Trevi, dei bronzi di Riace, di Pompei, GR. Alle 18:07 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa con Eleonora Micheli. C'era ancora un titolo da citare, poltrona Frau. Sì, poltrona Frau oggi è volata del 18%, si è approssimata al prezzo dell'OPA, che probabilmente verrà lanciato nel prossimo giugno. Ricordiamo che è stato raggiunto nei giorni scorsi un accordo in base al quale, annunciato oggi, in base al quale il gruppo americano che è specializzato nel settore dell'arredamento, Eworth, ha rilevato il 58% in mano al fondo Charm di Montezemolo e a Moschini. esattamente il 51 e poco più del 7%, a 2,96 euro. Una volta che verrà realizzata il passaggio della quota, a quel punto appunto l'azienda americana lancerà un'OPA a 2,96 euro, lo stesso prezzo. Ecco perché le azioni hanno chiuso a 2,93 euro, si sono quindi approssimate al prezzo d'OPA. E ricordo che Poltrona Frau, ultimi dati a disposizione sono quelli del 2013, ha avuto ricavi per 190 milioni di euro e possiede anche i marchi, altri marchi prestigiosi del nostro arredamento, mi riferisco a Cassina e Cappellini. Abbiamo la nostra Maria Luisa Pezzali, ha raggiunto il vicepresidente di Fondazione Altagamma, Armando Branchini, a cui ha chiesto un'analisi dell'operazione, perché so già che molti diranno ecco un altro pezzo del lusso italiano che va in mani straniere. Intanto grazie Eleonora Micheli, sentiamo allora Branchini. L'Italia ha bisogno di investimenti stranieri, tant'è che anche il primo ministro e il ministro delle finanze vanno a presentare le opportunità di investimento in Italia in tutti i paesi, erano prima di Natale negli Stati Uniti, a New York, a Washington, in questi giorni nel Golfo. È chiaro che gli investimenti stranieri che arrivano in Italia sono per comprare le aziende che vanno meglio, non quelle che vanno peggio, ed è comprensibile che appunto imprese dell'eccellenza industriale italiane in questi anni abbiano cambiato proprietà sia in Italia, pur rimanendo la proprietà in Italia, sia diventando la proprietà europea o internazionale. Per certi versi è un peccato, però normalmente vediamo che quando ci sono degli investitori che comprano delle aziende che vanno bene e le pagano tanto, poi investono anche tanto perché vadano sempre meglio, il che vuol dire che cresce l'occupazione, cresce il Made in Italy che viene esportato dall'Italia nel mondo intero. Devo dire che, l'abbiamo detto più volte anche nel caso Bulgari e in altri casi, non è tanto un problema che qualche fondo offra di più, appunto quasi il 20% in più rispetto al valore di borsa per comprarsi un marchio italiano del lusso. Il problema è che la tendenza è unidirezionale, sono sempre gli stranieri che vengono a comprarsi, o quasi sempre, marchi italiani, e vediamo meno poli italiani del lusso di altri settori chiave del nostro Made in Italy, le 4A di Marco Fortis, che comprano società straniere. Questo forse è l'unico punto, perché uno non può criticare, dopo che diciamo sempre che mancano gli investimenti stranieri, se le nostre aziende sono appetibili, anche perché poi il caso Gucci, ma anche il caso Bulgari dimostrano che c'è tutto l'interesse poi a mantenere la forza dei marchi. Uno non è così stupido da cancellare la forza del marchio. Il problema è che compriamo poco noi, forse per dimensioni, per potere, appunto anche dovuto alle piccole dimensioni, compriamo noi poco all'estero. No, la giungla nella mia testa in questo momento invece riguarda il canale di Panama. Allora, fermo restando che qui c'è un'operazione, raddoppiare il canale di Panama, 82 chilometri da scavare tra Pacifico e Atlantico, la più grande opera di costruzione al mondo. I lavori di ampliamento sono iniziati nel 2009, sono già realizzati per 2/3, al 70%, inaugurazione prevista per il 2015, i costi però, a causa di problemi geologici, sono cresciuti a dismisura, nel senso che sono aumentati di 1,6 miliardi contro i 3 miliardi 4 preventivati e arrivano adesso a 5 miliardi. L'opera dà lavoro a 10.000 persone, e il completamento permetterà di attraversare il canale anche le cosiddette navi post-Panamax. Il canale di Panama era proprio un'unità di misura per le navi cargo, per cui le costruivi perché passassero attraverso il canale di Panama, e quindi da 12.000 container si passerà a 36.000 container. Il costo sì è elevato, però giustamente ci ha fatto notare un ascoltatore che è vicino a quello delle autostrade italiane, dei 32 milioni di euro in media per costruire anche la Salerno-Reggio Calabria, che per carità, insomma, è anche lì la geologia conta, però insomma, tra Canale di Panama e la Salerno-Reggio Calabria mi permetto di dire che forse dovrebbe costare un po' meno la Salerno-Reggio Calabria. Allora, Simone Filippetti, perché buonasera. Ne parliamo? Buonasera a te, perché in questo gruppo che deve costruire il canale di Pana, il secondo canale, c'è anche Salini Impregilo, che ha il 38% di questa società che si chiama Gruppo Unidos por el Canal, che non è un movimento proletario, insomma, ma è la società che vuole raddoppiare, che sta raddoppiando il canale di Panama. Il titolo in borsa ne ha risentito non tantissimo, va detto, però che cosa è successo oggi? Che cosa hanno deciso le autorità panamensi? È un mese che avanti questo braccio di ferro fra governo di Panama e Salini Impregilo, e l'altro sono gli spagnoli di Sasir, poi ci sono altre aziende minori, una belga, una locale. Perché di fatto Panama a un certo punto una mattina se ne esce e dice: sapete che c'è, io non vi pago più i 1,6 miliardi di costi aggiuntivi che avete, che sono usciti fuori. Gli altri dicono: vabbè, allora se voi non c'ate i soldi noi blocchiamo i lavori. Braccio di ferro, sembrava che la cosa si fosse risolta, era scesa in campo anche l'Unione Europea, non dimentichiamolo, il vicepresidente Tajani si è speso molto per questa... perché si arrivasse a una soluzione amichevole. Della cosa solo siamo che in zona Cesarini, per rubare un'espressione calcistica, invece il governo di Panama si è alzato, butta l'aria il tavolo e dice: nessun accordo, non se ne fa più niente. Quindi ora il problema è: che succede adesso? Che succede adesso? Anche perché c'è stata una telefonata tra il vicepresidente Tajani, della Commissione Europea, Tajani, anche perché coinvolta la Salini Impregilo, ma anche la spagnola Sasir, sì, penso che si pronunci, Sasir, che ha il 49%, e la belga Jean de Nul, e poi c'è anche la panamense Cusa. Però ieri Tajani ha parlato con il ministro panamense, ricordando la correttezza delle relazioni tra Bruxelles e Panama. Il consorzio delle imprese dice che una decisione è illogica, l'atteggiamento è rigido, e adesso... perché il governo di Panama dice che resta l'obiettivo di terminare i lavori nel 2015, ma con chi? Qui si aprono due scenari. Il consorzio blocca i lavori, come già aveva sostanzialmente minacciato. Ricordiamo che ieri era una proroga questo blocco, appunto perché si pensava che si sarebbe raggiunto un accordo e quindi era stato concesso alcuni giorni di mora. Quindi se il consorzio dà seguito alle sue in qualche modo intenzioni, significa che da domani i lavori sono bloccati. Dal canto suo Panama potrebbe affidare i lavori a una ditta, tecnicamente un subentro. Potrebbe essere il colosso americano Bechtel, che all'epoca perse la gara d'appalto contro Sasir Impregilo. È un'ipotesi. Sta di fatto che affidare un altro significa allungare tantissimi tempi, perché significa smontare un cantiere, aprire un altro, trovare la manodopera, insomma tutti chiaramente problemi tecnici che ognuno di voi può immaginare. Quanto c'è di negoziale, quanto c'è di vero in questa uscita del governo di Panama? Al momento è difficile. Dici che potrebbe essere, diciamo, una mossa tattica. Beh, per arrivare poi... Cos'è che il canale è pronto al 70%, in realtà mancano le chiuse in acciaio che servono per bloccare l'acqua. Non sono dettagli in un canale, da come capisco. No, il problema è che le chiuse sono pronte, fabbricate in Italia, e devono andare a Panama. Allora cosa succede? Che se tu dici blocchi i lavori, le chiuse rimangono in Italia, chi subentra deve farle ricostruire da capo con un altro contractor, certo. E si parla di 1 o 2 anni di ritardo. Così è che il traffico stimato per il canale, in termini di pedaggi, di introiti che si paga per attraversare il canale, è di circa 2 miliardi all'inizio e 6 miliardi di dollari a regime. Quindi forse è meglio pagare 1,6 miliardi adesso e incassarne 6 il prossimo anno. Sì, perché tu dici, una volta che il canale è pronto, iniziano a incassare, giustamente a incassare, anche perché abbiamo spiegato che questo permetterebbe di triplicare il numero di container. Cioè una parte passerà, i Panamax passeranno per il vecchio canale, ma i cargo più grandi, quelli che prima non ci passavano... Sì, oggi sono queste navi larghe 32 metri, che attualmente non possono passare per il canale, perché il canale è largo solo 30, mi pare. Con il nuovo canale poi possono passare... Ballano 2 metri, come dicono a Milano. Vabbè, no, ma è chiarissimo tutto, ed è chiarissimo che appunto... anche l'impatto occupazionale e poi il ruolo dell'Italia, perché tu ricordavi giustamente, le chiuse sono fatte in Italia, il lavoro di costruzione li fa Impregilo Salini, quindi vedremo, vi racconteremo se si tratta solo di tattica o lo Stato panamense è disposto anche a ritardare i lavori, ritardare gli introiti che arriverebbero da questo passaggio delle navi, pur di andare avanti nel braccio di ferro. Grazie a Simone Filippetti. E adesso c'è il traffico, poi però parliamo di quello che la Corte dei Conti ha deciso oggi, cioè di citare per danni per 117 miliardi di euro le tre più importanti, direi quasi le uniche, anche se c'è quella cinese, c'è qualcos'altro, insomma, agenzie di rating, quelle che danno i voti ai debiti dei governi e dei privati al mondo, quindi Standard & Poor's, Moody's e Fitch. 117 miliardi di euro di danni. Perché? Perché nel 2011 abbassarono il voto dell'Italia da A più ad A nel caso di Standard & Poor's, e Moody's da A2 ad A2 e Fitch da AA- ad A+, e dice la Corte dei Conti del Lazio, il procuratore regionale del Lazio Raffaele De Dominicis, dice attenzione, non hanno tenuto conto dell'alto valore del patrimonio storico, culturale e artistico del nostro paese, che universalmente riconosciuto rappresenta la base della sua forza economica. Ora, per carità, possiamo decidere che nel patrimonio, nel bilancio di un paese mettiamo anche il patrimonio artistico, ma dobbiamo decidere tutti assieme e essere tutti d'accordo, perché sennò non è che noi iniziamo a quotare come parte del patrimonio il Colosseo. Un bene per essere nel patrimonio deve essere anche cedibile, vendibile, deve avere un prezzo di mercato, dei compratori. Detta così, boh, sembra un po' la fontana di Treviso Totò, ma comunque ne parliamo dopo il traffico. Le tre agenzie di rating Moody's, Standard & Poor's e Fitch guadagnarono miliardi dando il massimo dei voti a titoli rischiosi. Moody's, la più grande agenzia di rating, quadruplicò i suoi profitti tra il 2002 e il 2007. La Moody's e la Standard & Poor's venivano ricompensate sulle basi dei rating che davano, e più AAA davano, più alti erano i guadagni per la società. Immaginate di andare al New York Times e di dire: se mi scrivete un articolo positivo vi pago $500,000, se non lo fate non vi do niente. Le agenzie di rating avrebbero potuto interrompere la festa e dire: ci dispiace, dovremmo alzare i nostri standard, e tagliare immediatamente il flusso di finanziamenti verso mutuatari rischiosi. Gli strumenti valutati con la AAA passarono da una manciata a migliaia e migliaia. Centinaia di miliardi di dollari venivano valutati... Ogni anno? Ogni anno, sì. Ho testimoniato di fronte al Congresso e alla Camera dei rappresentanti sul problema delle agenzie di rating. Ed entrambe le volte i loro avvocati hanno tirato in ballo il primo emendamento, rivendicando il fatto che il loro giudizio di AAA era solo la loro opinione e che le persone non dovevano basarsi solo su di essa. I rating esprimono un'opinione. I nostri rating sono la nostra opinione. Opinioni. Opinioni non sono altro che opinioni. Credo che abbiamo enfatizzato il fatto che i nostri rating sono opinioni. Questa è un brano di Inside Job di Charles Ferguson, Oscar, come miglior documentario del 2011, che spesso facciamo ascoltare perché è l'accusa che muoviamo anche noi le agenzie di rating, ultima accusa nella gestione o nella preparare la grande bolla che poi esplosa con la più grande crisi dal 29. Ne resta in qualche modo partecipi di quel mondo lì. Però si può criticare le agenzie di rating e magari anche non essere d'accordo con la Corte dei Conti, lo dico a chi dice: ecco, adesso lei difende le agenzie di rating. Salvatore Bragantini, ex commissario Consob, consulente della Borsa Italiana, editorialista del Corriere della Sera, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, abbiamo sentito quel famoso passaggio di Inside Job sul ruolo e anche i conflitti di interesse, anche lo scarico di responsabilità che molte volte abbiamo sottolineato delle agenzie di rating, che poi si trincerano dietro la frase: ma noi davamo solo delle opinioni. Ma sono opinioni che muovono i mercati e muovono gli investimenti, e quando riguardano un paese determinano anche un danno sui conti pubblici, perché quando tu peggiori un voto, chiaramente poi il paese tende a dover offrire, o è obbligato a dover offrire, tassi di interesse più alti per trovare i finanziatori sul suo debito. E appunto, dicevamo anche del ministro Saccomanni, no a un ruolo eccessivo per le agenzie di rating, occorre valutare il rischio paese anche con altri giudizi, non c'è solo loro. Mi dica una cosa, però non voglio fare il difensore delle agenzie di rating, ma non è un po' singolare che nella citazione per danni da 117 miliardi di euro della Corte dei Conti per l'abbassamento del voto dell'Italia nel 2011, la Corte dei Conti, attraverso il procuratore regionale appunto del Lazio, Raffaele De Dominicis, dica che le agenzie non hanno tenuto conto dell'alto valore del patrimonio storico, culturale e artistico del nostro paese, che universalmente riconosciuto rappresenta la base della sua forza economica? Cioè, è difficile mettere in un bilancio di un paese il valore del patrimonio artistico, o ha ragione la Corte dei Conti? No, secondo me la Corte dei Conti ha torto. È chiaro che è anche vero quello che dicono, ma allora, alla stessa stregua, cosa dovrebbe dire la Grecia? che mi sembra che abbia anch'essa un patrimonio storico e architettonico e culturale che potrebbe raddrizzare i suoi conti. Francamente mi sembra una posizione singolare, come singolare mi sembra la richiesta, perché 117 miliardi è una bella cifra. No. Però l'altro discorso è che ci si affidi troppo all'agenzia di rating, questo è vero, ma non è colpa dell'agenzia di rating, è colpa di chi questo ruolo glielo ha riconosciuto. No, anche perché mi veniva in mente mentre lei parlava che allora dovremmo abbassare il voto di un paese come l'Australia, che ha tante bellezze naturali ma poche bellezze di carattere, diciamo, storico, culturale, perché è un paese molto giovane. Cioè inizieremo a fare i rating anche sulla base del patrimonio artistico, e poi sarebbe interessante anche vedere che cosa capita quando uno il patrimonio artistico non riesce a valorizzare. Allora dovremmo abbassare il rating dell'Italia per quello che riguarda Pompei, Bronzi di Riace e altre amenità. Quando lei dice però che siamo noi anche causa del nostro male, si riferisce al fatto che è stata l'Unione Europea a suo tempo a includere tra le valutazioni quelle dell'agenzia di rating, cioè usare lei come arbitro? Ma se non ricordo male, diciamo, la stessa BCE tratta i titoli che accetta diciamo, dalle banche in funzione dei rating che sono stati dati a questi titoli sovrani, sto parlando dei titoli di debito pubblico italiano, greco, francese o cos'altro. E quindi è la stessa BCE che ha stabilito questa regola, peraltro una regola è chiaro che va messa. Rilevo però che il vero punto sarebbe sottoporre a una critica tecnica il modo in cui le agenzie di rating danno i loro giudizi, perché per quello che mi risulta sono modi opachi e anche molto contestabili, cioè i loro modelli di valutazione mi sembrano ancorati al passato e poco significativi, non tengono conto per esempio delle supposte entrate fiscali prevedibili. Se noi rapportiamo il debito pubblico italiano alle entrate fiscali, diciamo, del paese, che ha purtroppo una pressione fiscale molto alta, non va poi così male. Quindi lei dice non è sbagliato, mi passi la forzatura, criticare le agenzie di rating, è sbagliato criticarle perché non tengono conto del patrimonio storico-culturale, e invece non criticarle perché per esempio non tengono conto di quella che è la pressione fiscale e le prossime entrate fiscali. Mi dica una cosa, non è che la Corte dei Conti lo ha fatto perché forse non ha gli strumenti per fare queste valutazioni? No, nel senso che la Corte dei Conti del Lazio... Mi dica. Come dicono gli ipocriti, questo l'ha detto lei. Ecco. Vabbè, ipocriti o i paraguru, diciamo, per essere per essere eleganti. No, sì, quindi, no, insomma, mi sembra un meccanismo un po' così, passi il termine, umanistico per attaccare le agenzie di rating. Sì, vanno attaccate sul loro modello di valutazione, che è, secondo me, altamente opinabile. Ma c'è anche un pregiudizio culturale, secondo lei? Da parte delle agenzie di rating? Sì. No, esiste, diciamo, una certa pressione del mondo anglosassone che è molto poco, diciamo, favorevole nei confronti dell'euro, della zona euro e certamente dei paesi deboli della zona euro. Questo è vero, però questo, diciamo, ognuno si deve difendere con le armi che ha, e non sono queste le armi. L'arma è mostrare che siamo un paese serio, cosa che non è sempre facile. Però mi dica un'ultima cosa, tutte le volte che ne abbiamo discusso e c'è chi ha paventato o in qualche modo illustrato la possibilità di avere altre agenzie di rating, un'agenzia di rating europea che quindi non sia sottoposta al voto del mondo americano, dentro, come ricordavo prima, dentro queste agenzie, poi i soci, a parte Fitch, sono anche importanti gli azionisti, sono anche importanti i fondi comuni di investimento. Però dicevo, al di là di questo, tutte le volte che si è ipotizzato di creare un'agenzia di rating diversa, penso anche alla Cina, non mi sembra che abbiano avuto grande successo. Cioè in Europa nemmeno si è partiti con questa idea. Ma mi sembra che poi alla fin fine, al di là delle polemiche, sia difficile scalzare, tra virgolette, il loro ruolo. Sì, questo è certamente vero. È un oligopolio che è maturato nei decenni e che è difficile scacciare. A suo tempo si parlò, appunto, come diceva lei, di fare un'agenzia europea inizialmente pubblica che poi pian piano sarebbe dovuta passare in mani private, però non se ne è fatto nulla. Quindi diciamo che questo del ruolo delle agenzie di rating è un problema che abbiamo, va risolto come sul piano tecnico, come dicevo prima, contestando i loro modelli che diciamo sono molto contestabili. Queste uscite mi sembrano tipiche di chi non riesce a trovare l'argomento vero e si abbarbica a delle cose che francamente lasciano il tempo che trovano. Sì, e poi voglio dire, ricordo, ne parleremo nei prossimi giorni se volete, che per essere messo in un bilancio il bene deve essere liquidabile. Allora sì, puoi dire vabbè, sono disposto a liquidare quello, quindi fa parte del mio patrimonio. Non funziona così, bisogna essere tutti d'accordo su questo. Non mi sembra che né l'Europa né a questo punto gli investitori contemplino Colosseo, Arena di Verona, Ponte di Rialto tra i beni liquidabili dello Stato italiano come patrimonio. Comunque, grazie a Salvatore Bragantini, da Sebastiano Berizzoni, auguri di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.